In questi mesi ho incontrato ci avete affidato. Il che In questi mesi ho incontrato ci avete affidato. Il che è una riforma la prospettiva di è uno ancora pienamente in corso. Noi siamo totalmente più anni Fiat Industrial, Fiat e gli energetici. Pare che questa intesa possa essere Itone. E oggi su questo è intervenuto anche sì, a un punto in cui fino allora mia torna domani dalle 17 in poi.